Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Presentata e sottoscritta stamattina a Roma la Carta di Lorenzo, un impegno per la sicurezza degli stage scolastici. La firma nella sede di Confindustria del documento in memoria di Lorenzo Parelli, tragicamente scomparso nel 2022 durante un periodo di alternanza scuola-lavoro. Il presidente Mattarella ha lodato l'iniziativa, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza e la dignità dei giovani nel mondo del lavoro. Soddisfazione è stata manifestata da Confindustria Udine. Provengono soprattutto da Afghanistan, Pakistan, Bangladesh ed Egitto i minori non accompagnati, ospiti di Casa Immacolata, la struttura di accoglienza udinese in cui stamattina una commissione del Consiglio regionale ha tenuto un sopralluogo dopo una rissa verificatasi un mese fa. Due sequestri di persona in un mese, entrambi a Trieste, entrambi fra migranti. Non si tratta di racket o di gruppi organizzati, spiega il procuratore Federico Frezza, ma di casi disperati. L'ultimo episodio di pochi giorni fa in Porto Vecchio ha coinvolto un gruppo di richiedenti asilo pakistani. Lotta contro il caporalato, saldatori bengalesi vincono la causa in tribunale. In tre hanno ottenuto giustizia contro lo sfruttamento e le aggressioni. Sabato un incontro pubblico a Monfalcone discuterà di diritti dei lavoratori e del fenomeno mafia anche in Friuli Venezia Giulia. L'amianto è stato messo al bando ma continua a mietere vittime. La asbestosi infatti è una malattia che può manifestarsi anche a distanza di 40 anni dall'esposizione. Fra il 2024 e il 2028 atteso il picco di questa patologia, le ex caserme fra i luoghi che sono stati maggiormente a rischio. Nel pomeriggio a Trieste un incontro per approfondire questa tematica. Gli ucraini chiedono la rimozione dei manifesti filorussi apparsi a Trieste. L'associazione culturale Ucraina Friuli ha scritto al sindaco di piazza per sollecitare l'eliminazione dei cartelli con la scritta «La Russia non è il mio nemico», denunciando una propaganda che offende i profughi ucraini. Presentata anche un'interrogazione al ministro dell'interno. Trieste Espresso Expo, inaugurazione stamattina al Generali Convention Center con un focus sul caffè sostenibile. La conferenza di apertura esplora la regolazione europea per un caffè senza deforestazione. Lo spazio è una grande opportunità in un paese che da 60 anni è protagonista delle attività spaziali, lo ha sottolineato l'astronauta Walter Villadei, ospite stamane del Malignani di Udine. A inizio di quest'anno ha trascorso due mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Ungaretti, poeta e soldato, con i suoi versi scritti sul Carso, teatro di guerra e di sofferenza. Su questa base narrativa e storica, 12 artisti hanno tratto spunto per interpretare il poeta in quegli anni di trincea. Due le mostre che sono state inaugurate ieri a Gorizia e a Monfalcone nell'ambito di Go 2025. La Valanga Azzurra, la riscoperta della nazionale italiana di sci alpino degli anni 70 in un docufilm che celebra i successi e la rivalità di un'epoca irripetibile, rivelando aneddoti inediti e il carattere invincibile di campioni come Gustavo Tuni, con testimonianze che hanno reso popolare lo sci agli italiani. Ieri sera la presentazione a Udine. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. Oggi a Roma, in Confindustria, la presentazione della Carta di Lorenzo, il manifesto alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente del quarto anno dell'Istituto Professionale Bearzi di Udine, morto nel 2022 per un incidente l'ultimo giorno del periodo di alternanza scuola-lavoro. La Carta di Lorenzo è stata sottoscritta dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ed ai genitori del giovane Elena e Dino Parelli, in apertura del Consiglio Generale di Confindustria. La proposta di sottoscrizione era stata formulata durante l'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico dello scorso 27 settembre a Grado dal presidente della Confindustria Michelangelo Agrusti. La sottoscrizione della Carta di Lorenzo in una sede significativa come il Consiglio Generale di Confindustria sottolinea l'impegno che il sistema delle imprese intende assumere nei confronti della sicurezza negli ambienti di lavoro per una maggiore tutela degli studenti impegnati in percorsi di formazione in azienda, ha scritto in un messaggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La tragica morte di Lorenzo Parelli durante uno stage a Udine ha drammaticamente richiamato l'attenzione dell'intera società italiana sui processi che accompagnano i giovani nell'ingresso nel mondo del lavoro, prosegue il testo inviato dal Capo dello Stato. Mentre rivolgo un pensiero ai suoi genitori e a quanti lo ebbero caro, esprimo apprezzamento per il solenne impegno che viene assunto oggi affinché accorciare la distanza fra giovani e lavoro si accompagni al rispetto della loro dignità di persone, di lavoratori e di cittadini, ha concluso il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio al Presidente di Confindustria Orsini. Grande soddisfazione è stata espressa da parte di Confindustria Udine per la notizia della firma del documento contenente i principi fondanti per implementare la cultura della sicurezza per gli studenti in Italia. Oggi, spiega una nota di Confindustria Udine, si è aperta una pagina nuova nella prevenzione della cultura della sicurezza in Italia. Vediamo riconosciuto a livello nazionale quell'iter avviato il 20 gennaio 2023, a distanza di un anno esatto dalla tragica morte durante uno stage di Lorenzo Parelli, e che aveva portato, su stimolo dei genitori del ragazzo, alla sottoscrizione all'Auditorio Malignani di Udine della Carta di Lorenzo da parte di Confindustria Udine, Regione Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale, Consulta degli Studenti e UIL. Visita della Commissione Educazione, Istruzione e Formazione Professionale del Consiglio regionale alla Casa d'Accoglienza Immacolata di Udine, che ospita minori stranieri non accompagnati. Un mese fa si era verificata una rissa, dopo la quale i responsabili erano stati allontanati. 67 gli ospiti attuali. Casa dell'Immacolata, da oltre 70 anni un'opportunità per giovani in difficoltà, da qualche tempo per minori stranieri non accompagnati. In via Chisimaio, quartiere San Domenico, a Udine, accogliere, educare e addestrare a una professione significa fare integrazione, non senza problemi. Soltanto un mese fa una lite scoppiata all'interno della struttura ha portato all'allontanamento di 3 giovani. Oggi la casa ospita 67 ragazzi, afghani, pakistani, bengalesi, egiziani e kosovari. Frequentano 6 classi diverse, cominciando dall'orientamento di base per imparare poi l'italiano fino ad un percorso formativo che gli permetta di diventare ad esempio falegname o carpentiere. Oggi la 6ª Commissione Consiliare Regionale ha voluto vedere con i propri occhi questa realtà. Roberto Novelli, Forza Italia. Bene il percorso di integrazione e di formazione, ma dobbiamo prestare una grandissima attenzione, in particolare gli enti gestori di queste strutture, per quanto riguarda poi quello che è il comportamento di questi giovani al di fuori di queste strutture. I corsi professionali sono una palestra di vita, lo diceva il fondatore della Casa dell'Immacolata, Don Emilio De Roia. Oggi la difficoltà sta nel completare il triennio di formazione, ma anche nel trovare educatori. Serena Pellegrino, Gruppo Misto. Quello che purtroppo accade è che con la demonizzazione di questi luoghi, purtroppo molte persone, anche i nostri italiani, evitano di fare questo lavoro. Io lancio veramente un grande messaggio alle persone, iscrivetevi ai corsi per educatori, perché questo lavoro è un lavoro bellissimo. Manuele Ferrari, Lega. Non avevo mai visto, non avevo mai avuto la fortuna anche di venire in queste strutture, ma devo dire che sono rimasto veramente impressionato, veramente positivamente. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lo stato di profonda indigenza induce i migranti, privi di ogni assistenza, a commettere reati anche ai danni di persone nella loro stessa condizione. Si ha notizia di ben 2 sequestri di persone a Trieste in circa un mese. L'ultimo episodio, qualche giorno fa, fra i magazzini del Porto Vecchio ha coinvolto un gruppo di pakistani che hanno bloccato un loro connazionale, costringendolo a telefonare ai suoi familiari per farsi inviare del denaro. Il giovane, liberatosi, ha dato l'allarme consentendo alla polizia locale di arrestare i responsabili. Su questi casi abbiamo intervistato il procuratore Federico Frezza. Lei dice non è un racket. Perché non è un racket? Perché non è stabile, quindi sono gruppetti che si organizzano e si disorganizzano, non è un racket come tendiamo a pensare noi, la nostra criminalità organizzata, queste sono persone che fanno reati quasi di impeto e il giorno dopo i 5 che hanno fatto un reato, faccio un esempio a caso, non sono gli stessi che lo fanno il giorno dopo, sono 3 sul corticino no e 2 no, quindi non è un racket stabile, poi queste persone si muovono, non stanno qui stabilmente. 2 sequestri in un mese preoccupa o semplicemente è successo, si è saputo? Beh, preoccupa sicuramente sì, credo che si sia saputo e che altre volte non si sappia, ma questo vale un po' per qualsiasi reato, quindi probabilmente si capisce che c'è un clima, un terreno fertile per questo tipo di violenze e di soprusi. Il timore è che ci sia poi impunità, ora in carcere, domani fuori, magari già in un altro paese. Questo non è così fondato, per reati così gravi non c'è assolutamente impunità, quindi chi, quando vengono presi, se vengono presi, rimangono in carcere perché non c'è motivo di scarciarli per reati così gravi. Fosse un furtarello sarebbe un altro discorso, però normalmente noi siamo molto prudenti nel chiedere le misure cautelari, la procura non ne chiede tante, quando le chiediamo insomma pensiamo che siano abbastanza fondate e se il GIP le dà poi rimangono solide e stabili. A Trieste esiste una nuova zona franca, prima era il Silos, adesso si sono spostati un po' più in là. Sì, in parte sì, però ne esistono sempre dappertutto, non dimentichiamo il problema che c'erano molto diversi in piazza Garibaldi con il reclutamento della manodopera in nero, esiste sempre qualche zona che in qualche modo sfugge, certo che questi sono edifici abbandonati facili da occupare, invadere precariamente, non precariamente. Se ci fossero persone, meno personale addiaccio, quindi più accoglienza, ci sarebbero meno reati? Ci sarebbero meno reati di questo tipo, è chiaro che non ci sarebbero questi soprusi reciproci tra diseredati in sostanza, è chiaro che se uno avesse un tetto, una casa, non subirebbe questo che chiamiamo pure racket, non ci sarebbe, ci sarebbero per altri reati, ma sicuramente di meno. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Si moltiplicano i processi per sfruttamento del lavoro anche a carico di aziende che operano in Friuli Venezia Giulia. Emblematico è il caso di tre operai interinali bengalesi che lavoravano per una delle decine di imprese in appalto per Fincantieri a Monfalcone. Operai trattati come schiavi, senza diritti, senza pause. I caporali sequestrano loro i permessi di soggiorno oppure impongono la paga globale, obbligano cioè gli operai a restituire in contanti varie centinaia di euro dallo stipendio mensile. Qualcuno degli oppressi trova il modo di farsi valere in tribunale, come i tre saldatori bengalesi della ex PAD Carpenterie di Monfalcone, stanchi di subire anche aggressioni fisiche. Come è successo a un nostro associato bengalese, che è stato tra le parti civili nel processo di PAD Carpenterie, che è stato invitato ad andarsene dalla PAD Carpenterie anche con un po' di botte. I tre hanno vinto la causa in primo grado al Tribunale di Gorizia. Due capiturne e un dipendente italiani sono stati condannati a 10 e 7 anni di carcere. Hanno fatto ricorso in appello e il processo deve ancora iniziare. I lavoratori immigrati, soprattutto in Fincantieri, ma in tantissime cooperative o realtà per il precariato, hanno una condizione economica e amministrativa legalitaria e illegale precaria. Questa precarietà li rende disponibili al superlavoro, a ritmi lavorativi abbastanza pesanti. Per esempio 10 o 12 ore al giorno per tutto un anno, per un operaio italiano sono quasi impossibili, cioè si rifiutano gli operai normalmente sindacalizzati. Si sa che si può fare un'ora di straordinario al giorno, ma non 2, 3, 4. Sabato mattina ci sarà un incontro pubblico al Palazzetto Veneto di Monfalcone. Interverranno anche Guardia di Finanza, Università di Trieste, FIOM, CGL e l'ex procuratore capo di Trieste, De Nicolo. L'incontro è promosso dall'Osservatorio Regionale Antimafia e da Libera, Associazione Contro le Mafie. Questi sono temi che riguardano tutti perché significa trattare di diritti umani. Significa parlare alle future generazioni quando andiamo nelle scuole, significa parlare di qualche cosa che ci riguarda proprio per il fatto che siamo comunità. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. L'asbestosi, un male che nei prossimi anni purtroppo metterà ancora vittime, tema di un incontro al Circolo della Stampa di Trieste. Lo sviluppo della malattia può verificarsi anche a distanza di 40 anni dall'esposizione all'amianto. Ne parleranno alle 17 Marino Valle, Vincenzo Cerceo, Fedele Boffoli. Saranno presenti il Vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, e il Vicequestore, Valentina Cubesi. Interverrà anche Lorenzo Lorusso, presidente dell'Associazione Finanzieri Esposti Amianto, il quale ci ha ribadito che l'incubo a Trieste e provincia non è finito. C'è un grafico che aveva realizzato il professor Bianchi, che è un anatomopatologo, e questo grafico praticamente prevede un picco massimo di morti tra il 2024 e il 2028. E in sostanza l'amianto agisce a distanza anche di decenni, e quindi praticamente questo picco è stato previsto sulla base di studi riguardanti appunto l'esposizione della popolazione, in questo caso di Trieste e provincia. Si parla molto di cantieri navali, però queste fibre sono presenti ancora in materiale inerte negli edifici pubblici? Sì, sono ancora presenti in alcune caserme, alcune sono state bonificate, ma comunque è rimasto sempre comunque dell'amianto disperso comunque nell'aria, tant'è che proprio nel comando regionale della Guardia di Finanza di Trieste c'è stato un decesso di un graduato che è morto per il mesotelioma della pleura. Ci sono i palazzi che affacciano proprio su queste caserme, due donne che stendevano la biancheria proprio di fronte a una di queste caserme sono morte anche loro per mesotelioma. Secondo lei si sta facendo abbastanza o si è fatto abbastanza nell'ultimo decennio per contrastare questo problema? Secondo me no, secondo me bisognerebbe agire con determinazione. Ci vorrebbe un numero verde dedicato all'amianto a livello nazionale, in maniera tale che dove ci sono per esempio discariche abusive oppure dove c'è la presenza di amianto che non è stato segnalato alle istituzioni, anche il comune cittadino potrà effettuare queste segnalazioni. L'Associazione Culturale Ucraina Friuli si è rivolta al sindaco di Trieste chiedendo la rimozione dei tre manifesti filorussi con la scritta «La Russia non è il mio nemico», affissi in città dal 21 ottobre. In merito è stata presentata un'interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi con la richiesta di far luce sugli autori materiali dei manifesti e se vi siano soggetti o organizzazioni straniere che hanno finanziato l'affissione in Italia. La lettera è firmata dalla presidente dell'associazione, Victoria Schiba, che denuncia l'intento della propaganda russa filo Putin di influire sull'opinione pubblica italiana dopo l'invasione dell'Ucraina. Inoltre i manifesti per la presidente dell'associazione Ucraina Friuli offendono la dignità delle migliaia di profughi ucraini ospitati nelle città italiane, che sono stati costretti a fuggire dalle loro case distrutte dall'esercito invasore russo. Intervento dei vigili del fuoco di Pordenone stamane a Fontana Fredda per lo spegnimento di un incendio in un'abitazione privata. Le fiamme sarebbero scaturite da un divano. All'interno dell'abitazione si trovavano anche due cani che sono stati tratti in salvo dalla squadra dei vigili del fuoco. Giornata inaugurale di Trieste Espresso Expo al Generali Convention Center, conferenza d'apertura dedicata alla regolazione europea per un caffè senza deforestazione. Non è solo il possibile aumento del prezzo al banco della tazzina di caffè a causa dell'aumento del costo della materia prima, il tema principale dell'undicesima edizione del Trieste Espresso Expo 2024 organizzato dalla Camera di Commercio Venezia Giulia. La tre giorni che è stata inaugurata questa mattina al Convention Center è entrata subito nel vivo con quello che è uno dei focus della filiera, cioè il regolamento europeo EUDR per la deforestazione, nuova normativa europea che promuove il consumo di prodotti ottenuti senza l'abbattimento di piante, che coinvolge paesi produttori come il Brasile e per la quale è già stato previsto un rinvio. Pesano poi i fattori ambientali, dai cambiamenti climatici che incidono sulle coltivazioni alle minacce rappresentate da insetti sempre più resistenti alle contromisure chimiche. Il quadro però è più ampio perché negli ultimi mesi ha registrato l'aumento delle quotazioni della materia prima, seppur in leggera frenata nell'ultimissimo periodo, a cui corrispondono scorte limitate nei paesi consumatori come l'Italia. Altro ostacolo è i ritardi negli arrivi della materia prima nel porto di Trieste a causa del perdurare della chiusura del canale di Suez per i conflitti in corso che concorrono a dare pressoché per certo l'aumento del prezzo della tazzina al bancone del bar. Secondo gli operatori il nuovo importo potrebbe essere di 1,50 euro, ma la libertà nella scelta della miscela dovrebbe dare la possibilità di calibrare in che modo rendere un po' più salato per le tasche dei consumatori un piacere che in teoria dovrebbe essere quanto più dolce possibile. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tempo, cielo coperto con piogge sparse sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 15 gradi, Udine Gorizia 16,5, Pordenone 15,5, Tolmezzo 13,5, Forni di Sopra 11, Tarvisio 10, Piancavallo 9,5, Sappada 9 gradi, Monte Zoncolan 6, Monte Lussari 4,5, Lignano 16 gradi, Grado 15,5. Ecco le previsioni, oggi pomeriggio cielo coperto con piogge abbondanti sulla costa e sulla pianura orientale, da deboli a moderate altrove. Dal pomeriggio le piogge si concentreranno a sud-est, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata in attenuazione in serata. Il colonnello Walter Villadei, astronauta dell'aeronautica italiana, è stato ospite stamane a Udine all'Istituto Malignani per raccontare la sua esperienza a un'entusiasta platea di studenti. Due le missioni a cui Villadei ha preso parte, il volo suborbitale Galactic One nell'autunno 2023 e le 3 settimane trascorse a bordo della Stazione Spaziale Internazionale tra gennaio e febbraio di quest'anno come ingegnere della Axiom Mission 3. Durante la conferenza del titolo Spazio dal volo umano alla New Space Economy, Villadei si è soffermato anche sulla crescita di investitori e enti privati che si affiancano alle agenzie spaziali governative. Ascoltiamolo al microfono di Daniele Letic. In generale questa disponibilità di nuove tecnologie, di capacità operative anche da privati, è un risultato che deriva da chiare scelte strategiche anche fatte da paesi come gli Stati Uniti, e questo per consentire e rendere sostenibile anche un'esplorazione più ampia. Riuscire ad arrivare sulla Luna, poi su Marte, richiede muovere risorse notevoli, ma questo richiede anche creare un'economia sostenibile nelle orbite basse, ed è quello che gli americani stanno facendo, creando e supportando lo sviluppo di capacità di privati. Privati che si fanno in qualche modo carico di una parte dei rischi insieme alle istituzioni per rendere lo spazio sostenibile. È chiaro che il privato va anche in qualche modo normato, va accompagnato, quindi c'è un tema di disponibilità di utilizzo delle risorse spaziali, che sono delle risorse comuni di interesse strategico per tutti i paesi. È un po' una pagina bianca, è un capitolo nuovo dell'esplorazione che si sta scrivendo. Direi che nei prossimi anni sicuramente la collaborazione tra mondo pubblico e mondo privato rappresenta la chiave di volta per raggiungere nuovi traguardi. Con la missione Axiom 3 abbiamo dato un pochino una prima espressione a questa opportunità di collaborazione, volando come istituzioni, come aeronautica militare, insieme al mondo scientifico, portando esperimenti scientifici, ma anche portando esperimenti che provenivano dal mondo dell'industria, quindi cercare come istituzioni di essere abilitanti al supporto industriale. Due mostre dedicate al poeta soldato Giuseppe Ungaretti ci accompagnano da oggi verso l'ampio programma culturale del 2025. La prima, inaugurata a Gorizia, inquadra Ungaretti da una prospettiva contemporanea. La seconda, a Monfalcone, esplora le espressioni pittoriche più significative ai tempi del poeta. Ungaretti, poeta e soldato, al Museo di Santa Chiara di Gorizia, con i suoi versi scritti sul carso teatro di guerra e di immani sofferenze. Da questa base narrativa e storica 12 artisti contemporanei hanno tratto spunto per interpretare lo sforzo vitale del poeta in quegli anni di trincea e i suoi scritti intrisi di tristezza e speranza. Tra i protagonisti della mostra c'è il pittore goriziano Franco Dugo. Io avevo già conosciuto le opere di Ungaretti molti anni fa. Ho fatto questo, che è un quadro molto molto semplice e con gli elementi che io sempre ho pensato: il carso, i sassi e questa vegetazione rossa che fa contrasto anche. E quindi ho voluto fare una cosa stringata proprio con questi due elementi che ricordano anche tutte le poesie di Ungaretti sul carso. Alla Galleria Comunale di Monfalcone, invece, percorso espositivo da Boccioni a Martini, gli artisti nelle Venezie ai tempi di Ungaretti, con il fermento novecentesco tra futurismo, espressionismo e surrealismo. Il curatore di entrambe le mostre è Marco Goldin. Dire anni 10 nelle Venezie, dunque il territorio contiguo, significa dire soprattutto il tempo di Capesaro, il grande movimento pittorico che ha sede a Venezia, città nella quale, nel Palazzo Pesaro, arrivavano grandissimi artisti, a cominciare da Umberto Boccioni e Felice Casorati, ma poi in modo specifico chiaramente le colonne portanti del gruppo di Capesaro, che sono in pittura Gino Rossi e in scultura Arturo Martini. Per me questo progetto dedicato a Ungaretti è un progetto diverso. Mettere insieme in questo modo molto forte pittura, sì, ma anche letteratura, storia, multimedialità, oggettistica, insomma è un grande viaggio, è un grande racconto, più ancora che una mostra semplicemente. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Un concerto nel segno dell'abbraccio simbolico tra musica e diritti umani. Parte così la programmazione 2024-2025 del Teatro Verdi di Pordenone, stasera alle 20.30. Per la prima volta in regione si esibirà la Human Rights Orchestra, che riunisce 60 musicisti da tutta Europa. Il cartellone musicale firmato dal pianista di origini veneziane Alessandro Taverna, che sarà anche protagonista sul palco e che ci spiega come un'orchestra possa veicolare messaggi importanti, come lo sono i diritti umani. Sembrerebbe un ossimoro che cosa ha a che fare la musica con i diritti umani. In realtà il fatto di incentivare una comunità, un interesse collettivo contagioso, questo è un messaggio anche per la società. Speriamo che non siano soltanto i musicisti per i diritti umani, ma anche gli studenti, i medici, i commercialisti. Quindi credo che avere chiamato questa orchestra per iniziare la programmazione 24-25 del Teatro Verdi ha un grande significato simbolico. Certo, sono questioni che apparentemente non ci toccano, ma che in realtà sono vicinissime a noi. Aprire in questo modo significa accendere un faro su queste tematiche. E lo fanno orchestrali provenienti da importanti istituzioni musicali europee? Sì, sono componenti delle principali orchestre europee, Vienna, Monaco, in Italia, la Filarmonica della Scala di Santa Cecilia, Parigi. Sono una comunità davvero eterogenea e anche questa multiculturalità fa di loro un esempio ancora più credibile. Ad aprire il programma la Sinfonia dal Nabucco di Verdi e la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. Perché questa scelta? Perché il Nabucco è forse tra le opere di Verdi quella che in modo più eloquente parla dei diritti vilipesi di ieri e di oggi. E poi sappiamo quanto l'opera parli anche alla contemporaneità. E poi la Sinfonia del Nuovo Mondo è uno spaccato reale di multiculturalità, anzi è un po' il simbolo della multiculturalità come via della pace. Un documentario ripercorre l'irripetibile parabola della nazionale italiana di sci alpino degli anni 70. Si intitola La Valanga Azzurra, come ben presto fu soprannominata la mitica squadra. Nel documentario si ripercorrono i successi, ma anche le rivalità interne fra gli atleti, fra i quali gli ormai leggendari Gustavo Teni, Piero Gross e Paolo De Chiesa, che sentiamo nel prossimo servizio. Gustavo Teni, che cos'è stata la Valanga Azzurra per lei? La Valanga Azzurra è soprattutto un periodo molto bello, eravamo una squadra molto forte, avevamo anche un gruppo di amici tra tutti e quello diciamo è la cosa più bella. Ci stimolavamo a vicenda, uno cercava sempre di essere davanti all'altro e quello ci ha dato senz'altro un aiuto a essere sempre migliori. Piero Grosso, allora che cosa è rimasta di quell'esperienza che ha fatto conoscere il mondo dello sci a tutta l'Italia? Tutto, indelebile. Dopo questi primi giorni della presentazione di questo docufilm ci è ritornato tutto alla mente, quei momenti fantastici, queste gare, queste vittorie, queste delusioni, perché nello sport non è che vinci sempre, anche il più forte arriva un momento in cui non vince ma si deve adeguare. De Chiesa, se lei avesse dovuto commentare quegli anni da commentatore televisivo, come avrebbe commentato la Valanga Azzurra? Mi sarei divertito come un pazzo a commentare Teni, Gross, la Valanga Azzurra, che sogno. Però io invece quella storia l'ho vissuta sui miei sciando insieme a Gustavo e a Piero, imparando da loro, stimolandoli anche, perché è chiaro che loro erano i più forti del mondo. Noi non eravamo bravi come Gustavo e Piero, però eravamo molto vicini e quindi sentivano il sale sulle code e forse in questo senso li abbiamo anche aiutati a dare sempre il massimo. Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia. Ultima notizia prima di chiudere: ci sono i nomi dei 24 semifinalisti di Sanremo Giovani per il Friuli Venezia Giulia. Si è qualificato Sea John, pseudonimo di Giovanni Maresca. Sono le 12:58 minuti e 25 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Andrea Fontanot e da Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. La nostra informazione torna in televisione col TG in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Andrei Marusci e da Antonio Cagliazza. Buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.